modi per chiamare il distretto. Sazze crepo, sazze crepo, sazze creponde. Modi per chiamare il distretto. Sto tutto flescia, sto tutto flescia, sto tutto flesciato. Il ponte so cercato, tu non ci puoi mai fa. Sei tutta allucinata, non riesci a camba. E quando ti fa male tutta gente che guarda e rira, rira, rira. Ci sono tanti modi per chiamare il distretto. Sto forricchio, sto forricchio, sto forricchio che... modi per chiamare distretto. Mi sono depresso, sto proprio male. Chiamate un dottore, solo lui può aiutarmi. C'è troppa gente schiava del panico che non fa i conti con la crisi della creazione, fino in fondo, fino al buio. Basta un farmaco dato male per bloccare il tuo cervello o risolvi da perverso i problemi più grandi di te. Se hai paura di restringerti, diventa